Europa 24. Più di 500.000 migranti sono stati rilevati alle frontiere dell'Unione Europea nei primi 8 mesi di quest'anno, 156.000 solo nel mese di agosto. Lo fa sapere Frontex, l'agenzia delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Nel 2014 ne sono stati registrati in totale 280.000. Prosegue il dibattito europeo sull'immigrazione dopo il vertice straordinario di ieri, nel giorno in cui si registra un nuovo naufragio nelle acque fra Turchia e Grecia. Almeno 22 persone, fra cui 4 bambini, sono morte davanti a Datka, in salvo oltre 200 persone. Non è un'emergenza temporanea, dobbiamo comprendere che questa emergenza durerà a lungo. A parlare così l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini stamani al Parlamento europeo. Il Consiglio Gli affari interni UE ha confermato che mentre sulla politica esterna dell'Unione, sui rifugiati e l'immigrazione abbiamo costruito un'unità, su quella interna abbiamo ancora dei passi da fare. La mancanza di unità interna ha un impatto negativo rispetto alla credibilità esterna dell'Europa, ha detto Mogherini. Lasciatemi dire che sono uscito dal Consiglio Affari Interni UE molto deluso ieri sera. Mi aspettavo più appoggio da tutti. Questa invece è la voce del commissario europeo Dimitris Avramopoulos nel suo intervento al Parlamento europeo. Ci sono paesi che hanno una prospettiva più nazionale che europea, ma noi andremo avanti, dice il commissario, che non ha nascosto la sua frustrazione per il nulla di fatto sulla questione delle quote di ripartizione dei profughi. Abbiamo un'enorme responsabilità, dobbiamo sapere che se non facciamo quello che dobbiamo fare ora ne pagheremo il conto. Sento parlare di un summit ad ottobre, una cosa che mi fa ridere, non possiamo aspettare, siamo di fronte ad una vera emergenza. A parlare così lo state ascoltando Antonio Guterres, responsabile dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Guterres ha anche ricordato che nella prima grave crisi migratoria d'Europa nel 1956 ci furono circa 200.000 rifugiati ungheresi in Austria. Ungheria che da oggi ha inasprito le norme sull'immigrazione. Già 16 persone sono state arrestate questa mattina. Rischiano fino a 3 anni di carcere. Prosegue e si rafforza leggermente la ripresa dell'occupazione nell'area euro. Nel secondo trimestre ha registrato un più 0,3% rispetto al periodo precedente, secondo i dati diffusi da Eurostat, a fronte del più 0,2% visto ad inizio anno e del più 0,1% dell'ultimo trimestre 2014. Nel confronto su base annua l'occupazione risulta aumentata dello 0,8%. Da notare che i due maggiori incrementi riguardano Portogallo e Grecia, due dei paesi oggetto di salvataggi e aiuti internazionali. Il mercato europeo dell'automobile è in continua crescita. Fiat Chrysler fra le migliori. L'azienda guidata da Marchionne sorpassa Volkswagen e le rivali francesi. Le immatricolazioni di auto in Europa ad agosto sono state l'11,2% in più rispetto allo stesso mese del 2014. Lo dice l'Associazione dei costruttori. Si tratta non solo di un dato positivo, ma anche di un'accelerazione rispetto a quanto registrato a luglio, quando la crescita si era fermata, si fa per dire, al 9,5%. Fiat Chrysler registra i risultati migliori, superiori anche a Volkswagen e ai competitors francesi. Il gruppo guidato da Marchionne cresce soprattutto in Spagna, Francia e Germania. Il Lingotto ha sottolineato che è proseguito, anche nei mesi estivi, il forte aumento delle vendite di Fiat Chrysler Automobiles in tutta Europa, all'ottavo mese consecutivo di crescita maggiore rispetto al resto del mercato. In totale, nei primi 8 mesi del 2015, le immatricolazioni nei 28 paesi dell'Unione, più Islanda, Norvegia e Svizzera, sono state oltre 9 milioni. I mercati più positivi si sono rivelati a sorpresa Spagna e Italia, ma il segno più è apparso anche in Regno Unito, Francia e Germania. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.